Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Buon pomeriggio da Maria Luisa Pezzali, ben ritrovati con l'antologia estiva di Essere e Avere. Dimmi cosa compri e ti dirò chi sei. Oggi vi riproponiamo una delle nostre puntate speciali, monografiche, quella tutta dedicata a consumi e passi falsi. C'era una volta una chat sul sito di macchia nera in disuso e ormai vecchia, così come il terminale, con una finestra su un piccolo schermo blu. Quella che sentite in sottofondo è la chatta di Daniele Silvestri, riscrittura ironica e tecnologica, possiamo dire, della gatta di Gino Paoli, divenuta in poco tempo un vero e proprio fenomeno virale. L'abbiamo scelta per introdurre il tema di oggi, il perché lo spiegheremo tra poco in compagnia della nostra esperta Patrizia Martello di Memetic Lab, docente di sociologia dei consumi, analisi delle tendenze alla Nuova Accademia di Belle Arti NABA di Milano. Patrizia, ben ritrovata. Grazie e buongiorno a tutti. Nell'era di Facebook e Twitter molta della credibilità di prodotti e marchi si gioca sul web, non solo per l'uso promozionale che le aziende fanno dei social network, ma anche per l'immediata diffusione e propagazione in rete di commenti, valutazioni, gossip sui brand o sulle persone riconducibili ai brand, testimonial ma anche presidenti e amministratori delegati per intenderci. Ecco quindi che passi falsi, scivoloni sui prodotti o sulla loro comunicazione possono diventare boomerang pesantissimi per le aziende e per la loro reputazione, con effetti diretti sulle vendite. Patrizia. Dunque, i mercati da qualche anno sono conversazioni, come ci ha svelato, era l'anno 99, la prima tesi ormai arcinota dell'altrettanto arcinoto Cloutrain Manifesto, quello stilato da un gruppo di guru dei new media. Perché conversazioni? Conversazioni tra chi? Tra le aziende e i consumatori. La seconda tesi di questo manifesto era che il mercato è fatto di persone, quindi le conversazioni sono tra aziende e consumatori che lo fanno, conversano come esseri umani da persona a persona. Tradizionalmente le aziende parlavano ai consumatori, ma non il contrario, era una comunicazione a senso unico, e questi monologhi sono diventati invece oggi, negli ultimi anni, e lo saranno sempre più, dialoghi. Questo nuovo piano, contesto relazionale è possibile naturalmente grazie alla rete, grazie ai social network. La rete è questo luogo in cui il contatto e il dialogo azienda-consumatore può nascere ed essere alimentato con facilità, ma con facilità non vuol dire che conversare sia facile. Infatti le aziende sono sbarcate sui social network in cerca di nuove opportunità di business, di visibilità, per raggiungere nuovi target, promuovere prodotti, servizi, eccetera, e hanno trovato in effetti interlocutori evoluti, informati e ben disposti al dialogo. Però appunto il dialogo è molto impegnativo, sia in termini di tempo, perché bisogna ascoltare, decodificare i feedback, quello che le persone dicono, e rispondere in tempo reale con la giusta tonalità, insomma secondo la temperatura della relazione. E ci sono anche molti rischi che si possono correre. Infatti oggi parliamo di brand reputation e di passi falsi. Infatti non si possono dire cose poco chiare, per esempio, e se si viene smascherati sono inefficaci codici e regole che valgono nell'offline, non si può censurare perché si ottiene l'effetto opposto, eccetera. Quindi facciamo subito degli esempi di qualche clamoroso passo falso che fanno capire quanto sia facile scivolare su una buccia di banana e perdere la faccia, con conseguenze effetto sulle vendite, sui prodotti, per esempio boicottaggi, caduta d'immagine, e tutto questo è recuperabile con grande fatica. Nel mondo moda, due casi di recenti conversazioni su uno stesso tema, quello della moda, delle modelle e dell'anoressia, che hanno avuto esiti molto diversi. Parliamo di Loft e di Patrizia Pepe. Loft, un marchio di Ann Taylor, una fan page su Facebook, cioè una pagina Facebook dedicata, aziendale, dedicata allo scambio di post post con le consumatrici su cui Loft posta le immagini di un nuovo modello di pantalone. Alle obiezioni molto esplicite di molte consumatrici stufe di vedere modelle a cui sta bene qualsiasi straccio, il marchio ha reagito trasformando questo problema in un'opportunità creativa, cioè ripubblicando le foto di quegli stessi capi ma indossati da donne vere, quali si autodefinivano queste fan arrabbiate, quindi donne comuni, pescando addirittura dal proprio staff donne a cui i pantaloni non stanno certamente come a quelle modelle. Questa risposta è stata molto apprezzata e lo scambio è continuato senza ulteriori conflitti. Il caso invece di Patrizia Pepe, messa apertamente in discussione dai fan per la scelta della modella giudicata anoressica, la cui foto viene pubblicata di nuovo sulla fanpage del brand italiano, ci riferiamo all'ultima campagna stampa, Patrizia Pepe difende la categoria delle modelle, non considerandosi responsabile della magrezza delle modelle, innescando quindi un'escalation di botte risposta, un'escalation molto antagonistica, che rimandava per esempio alla discussione ai forum sui disturbi alimentari, un dialogo assolutamente poco aperto all'ascolto delle ragioni di chi invece criticava la diffusione di modelli femminili aspirazionali sbagliati legati a questa eccessiva magrezza. Quindi in tempi in cui la responsabilità sociale delle aziende, anche e soprattutto quelle di moda, che sono le più influenti sull'immaginario, un approccio di questo tipo alla gestione di una crisi di reputazione è stato per esempio etichettato dagli esperti di Ninja Marketing come l'anti social media management, cioè una modalità gestionale sbagliata con riferimento alle specifiche dinamiche dei social network. Recentemente una società di consulenza e un'agenzia di pubblicità inglesi, Alterian e Yomego, hanno stilato la classifica dei 50 brand con la migliore reputazione sui social media, aggiornata al febbraio 2011. Ecco che cosa ne è emerso. Prima eBay, ultima Visa. La brand reputation sui social network premia chi ha saputo instaurare un dialogo diretto e trasparente con il consumatore. Ecco così che il gigante delle aste e delle vendite online batte big come Apple, seconda, e Google, terza, seguite da BlackBerry e Amazon. In sesta posizione, miglior piazzamento per i brand non legati a tecnologia o servizi online, Gucci, seguita da Ford e MTV. Chiudono i primi 10 Samsung e Yahoo. Solo 24esimo, a sorpresa, un gigante come Coca-Cola, che batte però la rivale Pepsi, 29esima. Patrizia, quello che stupisce è la posizione defilata di grandi marchi, uno su tutti Coca-Cola, appunto, che nelle classifiche sul valore di marca invece primeggia. Ma può essere una strategia tra virgolette difensiva, nel senso che ci si espone quanto basta ma non troppo, proprio per non incorrere in possibili attacchi alla marca. I marchi oggi, l'abbiamo già detto, non possono più fare a meno di comunicare via internet e di usare i social network. È per esempio emerso molto chiaramente anche nella Fashion Conference tenutasi lo scorso 10 maggio a New York, dove si è decretato che la moda non può fare a meno dei social network. Naturalmente non basta esserci nelle reti sociali, ma si tratta di esserci nel modo giusto, proprio perché parlando di conversazioni, di dialogo con i consumatori, si parla di relazione e nella relazione ogni espressione produce effetti e reazioni da una parte e dall'altra. Quindi a fronte di un aumento delle conversazioni è evidente che aumentino anche le possibilità di attacco alle marche e i conflitti, perché ci si espone molto. I conflitti tra aziende e consumatori in rete sono sempre di più, sempre più controversi e difficili da elaborare e gestire. Abbiamo visto che si può accogliere e gestire un attacco, una crisi di reputazione, si può respingere e reagire con aggressività, si può anche chiedere scusa, che è un'altra modalità per uscire dal problema ed è una cosa che succede sempre più spesso. Per esempio, aziende come Bing, motore di ricerca, che hanno usato il terremoto del Giappone per obiettivi di ritorno di immagine, segnalavano che per ogni retweet il brand avrebbe versato $1 fino a $100,000 appunto a sostegno dei giapponesi, e che, criticati apertamente, si sono scusati pubblicamente argomentando un fraintendimento sui mezzi loro e sui fini, cioè l'aiuto umanitario, e confermando comunque la donazione. Galeotto, un altro tweet che ha minato la reputazione di Chrysler. Il tweet era una domanda più o meno che suonava così: trovo assurdo che a Detroit, Motor City per eccellenza, città della dell'automobile la gente non sappia guidare. Il mittente risultava appunto Chrysler. Pare che un dipendente che si sia loggato non accorgendosi che scriveva a nome della sua azienda, che poi l'ha visto questo tweet, l'ha rimosso, ma ormai era stato propagato in rete. Anche questa crisi di reputazione si è conclusa con le pubbliche scuse dell'amministratore delegato Snyder per l'incauta gestione del proprio profilo Twitter aziendale. Essere e avere. Se digital vola password, la chat non era più chiusa ed una faccina scrivevo vicina vicina che ti sorrideva e poi rispondevi tu. Navigo più là, tutto è cambiato, non navigo più là. Ho un profilo bellissimo, bellissimo, coppa Facebook. Di nuovo in studio con Essere Avere, continuiamo a parlare di consumi e passi falsi. Ai tempi di Facebook e Twitter la reputazione è un tesoro da conquistare e conservare bene, altrimenti sono guai. Questo lo stanno imparando a proprie spese, è quello che stiamo raccontando in questa puntata, molti marchi, grandi e piccoli. Ecco perché molte agenzie si stanno specializzando nelle strategie per il monitoraggio e la gestione della brand reputation. Per saperne di più abbiamo in collegamento Angela Falotico, social media manager di TSV Strategies, società specializzata nelle strategie di marketing online. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Le aziende che si rivolgono a voi che cosa chiedono? Sì, allora diciamo che in 5 anni circa che noi lavoriamo su questo campo c'è stata proprio una evoluzione di richiesta da parte dei nostri clienti. Innanzitutto all'inizio erano molto grandi proprio perché la reputazione andava a impattare molto su quella che era la loro comunicazione. All'inizio sostanzialmente loro volevano sapere che cosa si diceva, se si parlava bene o male, e non è che usassero le nostre informazioni, le informazioni che venivano fuori dal monitoraggio per muoversi, per rispondere, per entrare anche in conversazione con le persone che parlavano del loro marchio. Invece ad oggi la situazione è diversa, probabilmente un po' perché la consapevolezza è cresciuta, un po' perché il web è cresciuto, quindi ci sono questi social network che fanno in modo che le persone parlino tanto e parlino di tutto, e quindi ad oggi il cliente ci crede proprio di sapere che cosa dicono, ma per poter entrare nelle conversazioni e soprattutto anche per creare dei contenuti, possiamo passare dalle fotografie a delle promozioni vere e proprie che possano rispondere alle esigenze delle persone che sono interessate a loro. Noi oggi parliamo di scivoloni, di passi falsi. C'è chi si rivolge a voi per riparare un danno passato di cui magari è rimasta traccia in rete? Soprattutto devo dire che questo era all'inizio, perché poi la consapevolezza di cui abbiamo parlato prima ha reso anche i brand più attenti a certe cose. Avevamo avuto proprio un cliente all'inizio che si ritrovava a fare conti con un difetto di un prodotto, fra l'altro a 2 anni dopo. La rete non ha data, non ha tempo, per cui quando uno cerca un'informazione molto spesso si ritrova magari dei commenti del 2008 e non si rende conto che non sono più presenti, e quindi loro avevano bisogno di capire come intervenire, e lì abbiamo fatto tutto il lavoro di analisi, abbiamo cercato di capire chi ne parlava, dove ne parlava, e insieme abbiamo strutturato proprio una strategia di risposta, e ad oggi devo dire che i risultati sono stati ottimi, perché nei primi posizionamenti, che per noi sono importantissimi, c'è la risposta ufficiale aziendale, per cui non ci sono più dubbi su che cosa bisogna fare in caso di quel difetto. Fare il social media manager non è un lavoro facile, quello che stiamo raccontando oggi in puntata lo testimonia. Secondo lei quali sono i punti fermi? Beh, una cosa che anche con i miei colleghi amiamo dire è innanzitutto mai dimenticare l'ovvio e la buona educazione che ci hanno insegnato nella vita reale deve esserci anche sempre nell'offline, anzi di più, perché lì rimane tutto bello scritto, poi si screenshotta, come si suol dire in gergo, per cui viene copiato e rimandato tutto quello che dici e non si può cancellare, per cui l'educazione prima di tutto. E poi il buon senso. Dopodiché la conoscenza ottimale di internet e i social network nascono come funghi, bisogna capire quelli che vanno di più, quelli che impattano di più nella reputazione. Non sempre Facebook può andare bene, perché magari ci sono dei brand, ma anche delle persone che non hanno motivo di trovarsi su Facebook perché lì non ci sono la loro utenza di appartenenza, e per cui cerchiamo proprio di capire dov'è giusto essere e com'è giusto parlare a seconda del luogo di riferimento. Grazie ad Angela Falotico per essere stata con noi. Grazie mille a voi, grazie. Patrizia, dicevamo in apertura, i social network amplificano i passi falsi, li rendono di dominio pubblico, ma si possono fare degli scivoloni anche fuori dalla rete. Certo, ci sono molti passi falsi anche fuori dalla rete, quando il marketing non convenzionale, per esempio, a volte per eccesso di voglia di stupire, crea effetti controintuitivi, effetti boomerang. Gli esempi sono moltissimi. Tra i più recenti, un'azione di ambient marketing di Globo TV e Airplane Faustão nel quartiere di Ipanema, Rio de Janeiro. Misteriose scatole di legno sono state disseminate in questo quartiere con presunti ordigni. Arrivano gli artificieri per scoprire che è una campagna promozionale con il claim Globo TV così pieno di premi che alcuni sono anche caduti dal cielo. L'agenzia PNG ha pubblicato quanto segue: le casse di legno apparse nella città di Rio de Janeiro erano parte di un'attività pubblicitaria. Deploriamo profondamente il disagio causato alla popolazione. Vi informiamo che l'attività è stata sospesa in tutta la città. Di nuovo scuse riparatrici. E poi la campagna di Sony per la nuova PSP Ceramic White, che è stata fortemente criticata per l'evidente scorrettezza politica in quanto definita razzista e oltraggiosa. Il claim recita: il bianco sta arrivando, e l'immagine mostra una donna bianca che attacca un'altra donna di colore, e di seguito lo slogan PlayStation Portable White is coming. E nell'era delle immagini, uno dei tanti passi falsi riguarda proprio la scelta di immagini improprie, come quella sacra di Lakshmi, dea indù della fertilità e della luce, che è stata riprodotta come stampa su una linea di costumi interi della designer Byron Bay australiana. Bene, questo ha scatenato un'accesissima, feroce discussione in rete, soprattutto in India. Ci sono state proteste con gruppi religiosi nelle piazze che bruciavano le bandiere australiane e le foto delle modelle che indossavano questi costumi alla sfilata della settimana della moda australiana. Gli attivisti del Partito del Popolo Indiano, principale forza d'opposizione del paese, hanno anche chiesto le scuse ufficiali del governo australiano. Hanno anche avviato un procedimento penale contro il marchio. La designer si è scusata, e questo l'effetto commerciale in termini del suo prodotto, ha fermato la produzione e ritirato i capi che non saranno venduti. Precedenti casi analoghi nel mondo moda: l'americana Guess aveva usato l'immagine di Ganesh su una maglietta, e l'azienda francese di calzature Minelli il principe Rama addirittura stampato sulle scarpe. Reputazione sul web dunque sempre più strategica, fondamentale per le aziende, ma anche per il proprio profilo personale. Ora anche Google ci viene in aiuto. Cosa dice di noi la rete? Qual è la nostra reputazione online? Se prima potevano essere solo le aziende a tenerla sotto controllo, adesso lo possono fare anche i singoli utenti. Si chiama Me on the Web, Io sul Web, il nuovo servizio di Google che permette di controllare quello che gli altri dicono di noi su internet. Dedicato a tutti coloro che possiedono un account Google, fra le altre cose consente di sapere subito quando qualcuno cita il nostro nome su un sito. Volendo, il motore di ricerca manda anche un avviso via mail. Me on the Web guida inoltre gli utenti in alcune procedure, prima fra tutte quella per chiedere a un sito di rimuovere una pagina che considerino lesiva della loro reputazione. Cosa c'è di nuovo a... Cosa c'è di nuovo a New York su consumi, passi falsi e dintorni? Ce lo racconta come sempre la nostra Urban Watcher, Alessia Zampano. Ciao Alessia. Un saluto a tutti. Protagonista di un recente scivolone nei social media è stato Kenneth Cole, fashion designer noto per essere lo stilista di dive del cinema, nonché un brand di moda e accessori. Ebbene, nei giorni della rivoluzione in Egitto, ha postato dall'account aziendale di Twitter la seguente dichiarazione: c'è grande confusione al Cairo, alcune voci dicono che hanno saputo che la nostra collezione primaverile è in vendita online. pensando di sfruttare maldestramente la parola Cairo preceduta dal cancelletto, che nel gergo di Twitter identifica gli argomenti di cui si parla e che in quel periodo era ovviamente ricercatissima. Inutile dirlo, il tweet ha scatenato l'ira di migliaia di persone, 1500 solo nella prima ora, che non si è placata neanche dopo le scuse ufficiali dello stilista, oltre a rimbalzare sui blog più autorevoli, compreso l'Huffington Post. E la polemica non è rimasta nei confini del web, perché qualcuno ha pensato bene di stampare una decalcomania che riproduceva fedelmente il tweet e l'ha appiccicata sulle vetrine dello store newyorkese in piena Quinta Strada, in modo che fosse visibile a tutti i passanti. L'immagine è stata più volte fotografata, è finita su Flickr, dove gli utenti ne hanno verificato e confermato l'autenticità, e ha cominciato a girare per la rete, amplificando esponenzialmente il brusio negativo. Risultato: la Twitter gaffe campeggia ora nella pagina di Wikipedia del brand. Grazie Alessia. Patrizia, premesso che tutto prima o poi si viene a sapere, del resto ricordiamolo, siamo non solo nell'era di Facebook e Twitter, come dicevamo prima, ma anche in quella di Wikileaks. Ciò premesso, a detta di molti esperti, il segreto per evitare i passi falsi è uno solo: comportarsi eticamente e responsabilmente. Infatti il fattore critico di successo delle aziende che usano i social network sta proprio nella posizione relazionale che viene assunta, perché c'è una responsabilità che sia consumatori che aziende devono capire che hanno e devono praticare nel momento in cui si parlano. Questa responsabilità passa attraverso codici relazionali che via via vanno definiti, affinati e incorporati. Dunque i soggetti che entrano nelle reti sociali e conversano devono imparare a farlo sempre meglio, con obiettivi, da un lato di efficacia commerciale, che però non debbono travalicare le ragioni etiche. Questo dovrebbe valere anche per chi i social network li ha inventati, e mi riferisco a Facebook, che insospettabilmente ha fatto una manovra maldestra, smascherata poi dal blogger che è stato ingaggiato per infamare Google. Staremo a vedere gli effetti boomerang che questo produrrà. Certo, si possono anche fare azioni di brand cleaning, cioè la pulizia della marca infangata, operazione che ha fatto per esempio Kate Moss, modella testimonial di molti brand, che ha fatto ripulire la sua immagine, facendo risalire le informazioni positive sulla sua biografia e facendo scendere, quindi di scomparire, quelle negative. Questo perlomeno quello che dicono i ben informati. Si chiude qui anche questa puntata con il meglio di della stagione di Essere e Avere. Restate con noi anche per le domeniche di agosto, poi da settembre torneremo con nuovi approfondimenti su moda, design, pubblicità, marketing e nuove tendenze. Appuntamento come sempre alle 16. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.